Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno, la trasmissione che ormai da oltre un anno affronta quotidianamente temi legati alla violazione dei diritti, ai soprusi e agli abusi, appunto. Oggi parliamo di una città bellissima, Reggio Calabria. Perché ne parliamo? Perché proprio a pochi giorni di distanza da arresti importanti su tutto il territorio calabrese che hanno assicurato alle patrie galere, speriamo per sempre, boss dell''Ndrangheta, il comune di Reggio Calabria, dopo aver attentamente studiato, diciamo così, le nuove spinte del governo a dare più poteri e maggiori responsabilità ai sindaci in temi di sicurezza, diceva appunto, il comune di Reggio Calabria ha emanato 8, a mio giudizio, significative delibere che vanno nel senso di rendere una città più sicura, ma soprattutto una città senza tanti abusivi, dal commercio allo sfruttamento dei bambini, che purtroppo sono una piaga non soltanto di Reggio ovviamente, ma di tutte le città italiane. E per parlare di queste 8 delibere, 8 ordinanze per vivere meglio, ha titolato la Gazzetta del Sud nella cronaca di Reggio del 10 ottobre, noi abbiamo gradito ospite il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti. Buongiorno Scopelliti. Buongiorno a lei. Allora, da quale ordinanza partiamo, sindaco? Guardi, secondo me è quella più importante, se mi è permesso indicare quella legato alla vendita abusiva, diciamo così, di strutture commerciali, di che riguarda i famosi fruttivendoli, pescivendoli, se così in gergo si possono definire, che è quella che forse è stata la richiesta di tantissimi cittadini in questi anni, un intervento necessario che dà anche un limite, pone un limite a questa sorta di arroganza, di abuso che in città, in alcune realtà, diciamo, zone del nostro territorio cittadino emerge come un'esigenza primaria. Ecco, anche perché lei stava, come dire, raccontando prima della registrazione che questa particolare categoria di abusivi è anche portatrice di una cultura non propriamente di legalità. Esatto, questo, cominciamo da qui, e si comincia da quelli che si possono definire i più forti, anche un'esigenza che nasce dal basso, dal cittadino. Andiamo a reprimere coloro che pensano di essere, che sono i più arroganti, quelli che pensano di essere gli intoccabili. Poi passiamo agli extracomunitari, che sono una piccolissima, ridotta minoranza della nostra città, ma che comunque anche loro, diciamo così, fanno delle vendite abusive e quindi vanno comunque, insomma, a creare quel momento di disagio. Ecco, io qui sottolineerei l'importanza del passaggio, se mi permette, sindaco, perché è facile colpire i deboli, fare i forti con i deboli, è molto più difficile fare i forti con i forti. Invece mi pare che il ragionamento che voi avete fatto nel vostro comune sia esattamente questo qui, no? Prima si parte da chi magari ha una cultura anche alle spalle, non soltanto di legalità diffusa, ma anche di valori che poi hanno portato la vostra terra alla rovina, e poi si arriva agli extracomunitari più bisognosi, quelli che probabilmente non hanno neppure un tozzo di pane nella loro patria d'origine e vengono da noi per almeno cercare di avere quello. Esattamente, noi vogliamo rappresentare un esempio positivo, vogliamo dimostrare la nostra azione, è un'azione di rottura, soprattutto con coloro che sono portatori di cultura non della legalità. Esattamente. Questo è il primo, diciamo, il primo atto che metteremo in campo nei prossimi giorni, insomma, attraverso questa capacità di coinvolgere un discorso di interforze, ovviamente oltre ai vigili urbani anche le altre forze di polizia. Ecco, un altro discorso che mi interessava moltissimo affrontare con lei era la condivisione, mi pare di poter dire, degli obiettivi, del modo per raggiungerli, che lei ha adottato nei confronti di organi dello Stato, quali ad esempio la Prefettura e la Questura. Può raccontare, anche perché qui ci stanno ascoltando, oltre a migliaia di radioascoltatori, anche molti amministratori comunali di altre città, può raccontarci il percorso che lei ha condiviso con Prefettura e Questura su queste 8 ordinanze? Certo, io innanzitutto all'indomani del decreto Maroni ho valutato attentamente le scelte che la mia amministrazione doveva fare su questo versante, perché ho sempre ricordato e detto che noi siamo istituzioni già molto impegnate sul territorio con grande responsabilità, e questo nuovo ruolo che ci viene assegnato deve essere svolto con grande professionalità e anche con grande coerenza. E quindi il messaggio che più volte ho dato anche in sede ANCI era che a mio giudizio nessuno dovesse abusare di questo ruolo, di questo decreto, che appunto questi nuovi poteri che vengono assegnati ai sindaci. Dall'altra, nel momento in cui ho immaginato e scritto queste 8 ordinanze, le ho trasmesse 10 giorni prima al prefetto, il quale le ha rese note anche alle altre forze di polizia del territorio, e poi mi ha rispedito, diciamo, queste ordinanze il prefetto con una lettera complimentandosi per l'azione e per, insomma, il messaggio che volevo dare ai cittadini. Bene, effettivamente in un territorio come quello calabrese, in una città come Reggio Calabria, cercare e ottenere il consenso, la collaborazione dello Stato rappresentato appunto dalla prefettura, io dico che è fondamentale. Veniamo ad un tema che è caro a molti, anche se è un tema anche ricco di ipocrisia, perché se le prostitute esistono è perché qualcuno con loro va. Ora, voglio dire, se le strade italiane sono piene di prostitute, sia in città che fuori città, è perché c'è una offerta, ma c'è anche una grandissima domanda. È un tema che ha tenuto le pagine dei giornali per settimane e settimane e continua a tenerlo. Anche su questo voi avete fatto un'ordinanza. Allora, cerchiamo di capire, una grande città del sud come Reggio Calabria, quali provvedimenti vuole adottare per cercare di contrastare, possibilmente debellare, un fenomeno che, ricordiamolo, è pur sempre nelle mani della criminalità, sia essa italiana sia essa straniera. Prego, sindaco. E anche qui abbiamo emesso un'ordinanza che è molto simile, si avvicina un po' all'ordinanza emessa dal sindaco Alemanno a Roma, però fermo restando che il problema della prostituzione nella nostra città è abbastanza circoscritto a due piccole aree della nostra città, e non c'è una grandissima diffusa presenza, proprio perché comunque noi questi sistemi dell'emergenza su questo versante la viviamo, ma la viviamo in maniera molto diversa rispetto all'altra parte del paese. Lei sa molto bene che da noi c'è un fenomeno diverso che da una parte è molto più preoccupante, che è quello dell'andrangheta. Dall'altra, il tema della sicurezza, io lo dicevo anche le settimane scorse, ricordavo il Reggio come forse la città più sicura a livello nazionale, dove i ragazzi possono e le ragazze possono passeggiare tranquillamente di notte per le strade senza mai essere avvicinate né insultate né aggredite. Questa è una delle grandi qualità di questa nostra città, è una città sicurissima sotto questo aspetto. Dall'altra c'è il fenomeno, quello più grave e devastante, che è dell'andrangheta, che va ovviamente anche questo perseguito, che va ovviamente rafforzata l'azione di questo governo, che già comunque ha conseguito dei risultati importanti, ma che non possiamo fermarci, perché è un fenomeno che va debellato e va fatto in maniera ancora più pesante e articolata. Proprio su questo mi inserirei, sindaco, perché lei ha esordito dicendo attenzione, queste ordinanze non sono soltanto ordinanze che vanno in attuazione di ciò che il decreto Maroni dice, non soltanto, ci ha spiegato, sono sposate, diciamo così, all'azione dello Stato, ma vanno anche a colpire subito chi è portatore di interessi di illegalità. Abbiamo detto i commercianti abusivi, i pescivendoli, che spesso sono direttamente o indirettamente uomini vicino alle 'ndrine calabresi. Nonostante tutto, però, qualcuno potrebbe dire: beh, effettivamente Reggio Calabria ha problemi ben più importanti. E quindi come cercate di affrontare alla radice, oltre a questo che lei ci sta raccontando, sindaco, il problema dell'andrangheta nella vostra città? Ad esempio, mi viene in mente sui lavori pubblici e sugli appalti, cosa che, come lei sa molto meglio di me, è un terreno molto sensibile per le imprese mafiose. Sicuramente, ma intanto vorrei anche dire che tra questi commercianti c'è anche tanta gente per bene. Poi certamente, ovviamente, è vicino e collegato, e noi su questo vogliamo incidere, perché è un problema, è la famosa zona grigia, quella zona, insomma, che è portatore e portatrice anche di cultura e la mafiosità, ma che magari non sono mafiose, e lì bisogna intervenire proprio per creare questo grande distacco tra la strada maggioranza dei cittadini, che pensa in maniera diversa, e quella piccola frangia che a volte è rumorosa e si fa sentire, che è appunto l'andrangheta. Su questo tema è chiaro che noi stiamo investendo molto come città, con investimenti culturali, dando ai ragazzi nuovi modelli di riferimento, facendo un investimento serio, perché questo mezzogiorno, sono passati ormai quasi 40 anni che ha vissuto una stagione di grande di grande difficoltà nel percepire e nel sentirsi vicino alle istituzioni. Allora, e per quanto riguarda, appunto, come dicevo prima, il rischio di infiltrazione nei lavori pubblici, la vostra opera di trasparenza come, diciamo così, si concretizza? Noi stiamo agendo in grande sintonia con la prefettura. Abbiamo realizzato questa idea della stazione unica appaltante, che è un'idea del prefetto Musolino, che nelle prossime settimane avrà via libera, e quindi anche questo è un grande segnale in cui tutti gli appalti sopra i 100.000 euro vengono fatti da questa stazione unica appaltante all'interno, che viene vigilata e seguita dalla prefettura. Quindi un modo anche per sentirci anche noi meno, diciamo così, coinvolti, anche se non lo siamo mai stati, diciamo così, perché poi è un aspetto legato alla burocrazia, e anche questo è un tema che va sicuramente in Calabria recuperato e ripreso. Certo. Non c'è tanta mala politica, ma c'è tanta mala burocrazia nella nostra regione, che anche questa va studiata e debellata. Assolutamente. Io ringrazio per questa chiacchierata il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Scopelliti, che ci lascia, direi, con una bellissima notizia, che è quella della stazione unica appaltante per i lavori superiori a 100.000 euro. Grazie, sindaco, per il suo intervento. Grazie a lei. E nel salutare in regia Fabio Cantadori e in studio Laura Fagin, Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.